English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Spesso giriamo il mondo, anche se solo intervistando protagonisti dello spettacolo e per telefono, ma esploriamo comunque diverse pronunce, diversi modi di parlare l'inglese. Oggi incontriamo una splendida ragazza svizzera che parla benissimo l'inglese, si fa chiamare Yael ed è la frontwoman dei Lunik, band svizzera che in questi giorni esce con il nuovo album Small Lights in the Dark. Abbiamo chiacchierato con lei e intanto le abbiamo chiesto la ragione del suo nome d'arte. Yael. I was actually christened Rachel, which is spelled Rael in Switzerland, but I couldn't spell the R, the Swiss R, which is the same as in Italy, the R, this one. I couldn't tell it when I was little, so I replaced every R by J. So what was originally Rael became Yael, and I really liked the name, and it kind of stuck, so... And I changed it for good now. It's also in my passport. I'm Yael now, so it's not like an artist name or something. For me, it's my real name now. Allora, Giulia, Yael è una ragazza peraltro molto bella, molto, molto gentile, svizzera, svizzerissima, che parla però, direi, un inglese piuttosto corretto. Un ottimo inglese. A volte gli svizzeri o i tedeschi, lo dico per esperienza personale, mia mamma è tedesca ed è proprio così, parlano bene l'inglese, magari anche molto bene, ma sembra che parlino tedesco perché hanno un accento fortissimo. Invece lei parla appunto molto bene e spiega l'origine di questo nome strano. Questo Yael, che non è un nome... È un nome veramente esistente, ma lei non si chiama così, lei si chiama Rachel, l'ha detto. Sì. E qui c'è subito un false friend, questo actually, che non vuol dire naturalmente attualmente, ma in verità. Quindi lei dice, in verità, actually, I was christened Rachel. To be christened vuol dire essere battezzati, perché appunto è una cosa, nella lingua inglese c'è questa fortissima caratterizzazione della parola che ci dice subito che è una cosa della religione cristiana, quindi naturalmente la radice del termine è Christ, quindi Christ. Battezzata Rachel, appunto. Tanti hanno un soprannome che deriva da come da piccoli pronunciavano il loro nome. Io non ho soprannomi particolari, però lei invece sì. E lei dice: io non riuscivo a pronunciare la R, e quindi, e qui fa un piccolo errore, ma vabbè, glielo perdoniamo. Lei dice che I replaced every R by J. In realtà non ha sostituito la R con una J, ma con una Y, che in inglese sarebbe Y. Comunque, insomma, lo capiamo lo stesso, perciò mette questa Why, questa Yael, questa, perché sennò in inglese sarebbe Jael, che invece no, è Yael. E insomma, comunque ha sostituito queste lettere e quindi è venuto fuori il nuovo nome. Anche perché alla fine le piaceva, I really liked the name, e le è rimasto quasi appiccicato addosso, possiamo dire così? Sì, it kind of stuck. Vedete, lo parla talmente bene che addirittura usa gli slang. Questo kind of lo abbiamo sentito tantissime volte nei madrelingua, che vuol dire appunto praticamente è successo, così è successo. Stuck naturalmente è un verbo e viene da un verbo irregolare che è to stick, stuck, quindi è restare appiccicati, e il nome le è in un certo senso così mi è rimasto appiccicato. Tanto che non è un nome d'arte, cioè è diventato proprio il suo nome vero. E qui c'è un'altra espressione che non possiamo tradurre letteralmente perché in italiano non vorrebbe dire la stessa cosa. I changed for good. For good vuol dire per sempre, non per bene. Quindi qualcosa che è successo for good vuol dire che da temporaneo è diventato definitivo, quindi appunto per sempre, è cambiato per sempre. It's also on my passport, l'ha messa addirittura sul passaporto. Perciò lei Yael, non è più Rachel, ma è Yael anche appunto sul passaporto. Lei dice, per questo non è un artist name, non è uno pseudonimo, un nome d'arte, è proprio il mio nome. Cioè io fin da piccola volevo essere chiamata così e ci sono riuscita, fino a cambiare persino il nome all'anagrafe. Lei è una ragazza molto carina, molto educata, molto tenera e molto svizzera, però, perché lei vive ancora in Svizzera, è nata in una città molto tranquilla e ci ha anche spiegato quanto è carina Berna, ma non è proprio un posto da pop star, da star famosa, eppure lei rimane lì. E com'è fare la pop star restando in Svizzera? I guess growing up there, my thoughts, my lyrics are, and they probably have something Swiss in them, but I think probably Swiss people, they think about the same thoughts as everybody else too, so I think it's international thoughts, even though they're originally coming from Switzerland. And when it comes to the music, I mean, we just have a melody, I love melodies, great, nice round melodies, pop melodies, hooks. Which is international as well, I think. And well, it's really hard for me to say what particular is Swiss about our music, because it was also produced by somebody which is not from Switzerland and is from America, and I think we have that rather international sound in our music. E qui cercherò di essere super partes, nonostante io ami particolarmente la Svizzera e ho ascendente svizzere, quindi proprio nessuno mi tocchi la Svizzera, e le ho chiesto: ma c'è qualcosa di particolare, tu ritrovi qualcosa di particolare in te, nella tua musica, del fatto insomma di venire da un paese che non è proprio la culla di tante pop e rock star, diciamo, dobbiamo ammetterlo. E lei dà una risposta molto semplice ma molto intelligente, dice: certo, I guess growing up there, cioè mi immagino, certo, credo, penso, I guess, naturalmente, letteralmente vuol dire indovino che, però è una diventa quasi un'espressione, un intercalare per dire credo, mi immagino, penso, e si può usare in molti contesti. E quindi lei dice: sì, certo, potremmo dire in italiano, sì, certo, il fatto che io sia cresciuta lì influence my thoughts and my lyrics, ha influenzato il mio modo di pensare e le parole delle mie canzoni. Però, insomma, i pensieri degli svizzeri devono avere qualcosa di internazionale, siamo tutti esseri umani, un po' come se dicesse questo, no? Quindi, Swiss people think the same thoughts as our international thoughts, quindi sulle cose importanti, appunto, che poi sono quelle che entrano nelle sue canzoni, le passioni, l'amore, la vita, insomma, la vita vissuta, non è che in Svizzera vivano in un modo completamente diverso dal resto del mondo. Anche se si sta molto bene, lo diceva. No, scherzi a parte, lei dice: per quanto riguarda la musica, anche lì forse la influenza di più il suo carattere, appunto la sua dolcezza, il fatto che lei ami la melodia, la delicatezza, ecco. Ecco, tu hai tradotto letteralmente in italiano per quello che riguarda la musica, e in inglese è proprio, si usa il verbo to come, when it comes to, quindi when it comes to the music, ma potremmo usarlo, non so, when it comes to you, quando riguarda te, I become bias, divento parziale, per esempio. Potrebbe dire una mamma, ma quindi when it comes to the music, quando per quello che riguarda la musica, I love melodies, mi piacciono moltissimo le melodie, e anche in questo c'è qualcosa di international as well, anche in questo, I think. Credo. Non solo perché lei appunto pensa che ormai i confini non siano più quelli di una volta, ma anche perché, e vi anticipo che lo incontreremo settimana prossima perché è davvero un personaggio singolare, loro hanno un produttore straniero americano. Quindi lei ripete: it's really hard for me to say che cosa c'è di Swiss nella mia musica, però oggettivamente il disco was produced by somebody who is not from Switzerland, da qualcuno che non viene dalla Svizzera, e quindi ci deve essere un rather international sound in our music. A questo rather è anche una parola molto versatile, perché in questo senso vuol dire un suono piuttosto internazionale, ma lo possiamo usare anche quando facciamo due confronti, per esempio I like skiing rather than swimming, mi piace di più sciare che non nuotare, quindi è una parola di quelle che appunto a seconda del contesto la si può usare in modi diversi. Chi vedesse Yael potrebbe pensare che lei è una bella ragazza messa lì per fare immagine, perché è davvero bella, ma lei scrive anche i brani del gruppo e ci ha spiegato come. For me it's really important to tell my personal story, so my lyrics are very intimate, are very much taken out of my life. A lot of it is autobiographical, not all of it, of course. I kind of also tell tales, but I'm inspired by my own life and by the life of my surroundings. So this is for me kind of the most important thing. And as I grew up with pop music and English music, I really like choirs. For example, I tend to go for nice melodies and make them even stronger with choirs, and I love strings. So it's a very emotional album. We were really going for the emotions and leave the perfection behind. It's important to tell my personal story. Lei, insomma, mette molto di se stessa nelle canzoni. Sì, e dice proprio: my lyrics are very intimate nel senso di intime, cioè che la riguardano intimamente, quindi che sono cose che lei sente molto, perché they are very much taken out of my life, per la maggior parte, in grande parte, very much in questo senso, taken out of my life, vengono direttamente dalla mia vita vissuta. Infatti molte di queste cose, lo dice, sono autobiografiche, ma non solo, lei è anche capace di raccontare storie che non la riguardano, storie inventate, però forse le piace di più raccontare storie di vita. Sì, e qui di nuovo usa quel kind, quindi kind of tell tales, quindi ogni tanto anch'io sono capace di tell tales, che è un gioco di parole, di raccontare delle storie. Tale, scritto tale, mentre tell è scritto T-E-L-L, che è il verbo to tell, quindi le storie. Lei si fa ispirare dalla sua vita e anche da tutto quello che la circonda, le persone, non solo, ma i surroundings. Surround, ricordate, tutti avremmo visto quante volte l'ha scritta Dolby Surround, no? Quando abbiamo questo sistema acustico che permette di sentire il suono tutto intorno. Ecco, però i surroundings in realtà sono anche i surroundings fisici normalmente, quindi per esempio i nostri vicini di casa, piuttosto che le persone con cui lavoriamo, insomma tutto quello che ci circonda nella nostra vita di tutti i giorni. E ancora una volta questo si accompagna alla sua musica e ancora una volta ci racconta la sua passione per le melodie, non solo. Sì, perché ovviamente lei dice I grew up with all kind of music. E però ha questa passione per i cori. I really like choirs. Naturalmente i cori possono essere fatti in tantissimi modi, da quelli degli Jödel, appunto, tedeschi o svizzeri, sono cori anche quelli. E però poi ci sono i cori, non so, i cori gospel. E lei dice quello e poi aggiunge I tend to go for, quindi mi piace scegliere, to go for something vuol dire proprio andare verso qualcosa, nel senso appunto di scegliere tra tante cose quella cosa che ci piace, quindi I tend to go for nice melodies. E di nuovo tornano le melodie, quindi melodie e cori e archi, e archi, dice I love strings, quindi le piace anche aggiungere, se conoscete la loro musica sicuramente lo sapete, le piace aggiungere questi archi. Lo sottolinea, it's a very emotional album, l'abbiamo detto, si intitola Small Lights in the Dark, piccole luci nel buio, questo suo album emotional, come possiamo definirlo? Attento alle emozioni, emotivo. Sì, anche qui un altro phrasal verb, to go for the emotion, vuol dire scegliere di nuovo tra tanto quello, cioè proprio impuntarsi su qualcosa, to go for, che poi c'è anche l'espressione go for it, se ti piace qualcosa falla, cioè falla convinto, e poi leave the perfection behind, cioè la perfezione dimenticatela, lasciatela dietro le spalle, non è quello l'importante, sono più importanti le emozioni. E noi salutiamo Yael, ve l'ho anticipato, settimana prossima incontreremo il produttore dei Lunik, perché è veramente molto simpatico, ne varrà la pena. Si conclude qui invece la nostra puntata di English 24, vi lasciamo al nostro appuntamento in edicola con English 24 cartaceo. Ringraziamo Fabio Cantadori in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli un saluto e l'appuntamento alla prossima settimana.